Agnul mio, no ti disgludi, no smentè il mio prin amor, e l'ancur che il mi consume, nol dare qui al mio dolor. Vivi in sium, e pur no vivi, strenzi voi senza dormi, aspesei e non mi movi, soi già muart, prin di morì. Dome un flor, la grisolute, a mi sta sempre per me. Mi giacare e mi fa vele, e al color dal paradis. Io la tegni strente strente, ben platate tal mio cur. Soi sicur che il mont bandoni, che quel flor mi venda ur.